Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Nel 1997 lo psicoanalista americano James Hillman, allievo di Gustav Jung, e in seguito alla morte del maestro, direttore per 10 anni del Centro Studi Junghiani a Zurigo, pubblica un saggio intitolato Il codice dell'anima, carattere, vocazione e destino. Nel libro, Hillman scrive, contrariamente a tutte le teorie che negli ultimi anni hanno considerato lo sviluppo dell'anima come fortemente influenzato dall'ambiente esterno e dall'educazione genitoriale, che per trovare un senso alla propria vita bisogna tornare a cercare una via personale e unica, che esiste in ognuno di noi e che vale la pena di essere percorsa. Per esporre questo pensiero, Hillman concepisce la teoria della ghianda. Sostanzialmente in una ghianda, la piccola ghianda, è già inscritto il destino della quercia, la grande e possente quercia. Come la ghianda, anche l'uomo reca impressa fin dall'inizio l'immagine di un preciso carattere individuale dotato di tratti indelebili. Esiste un motivo per cui la mia persona, che è unica e irripetibile, è al mondo. E esistono cose alle quali mi devo dedicare al di là del quotidiano e che al quotidiano conferiscono la sua ragione d'essere. In tante vite questo motivo è andato smarrito e va recuperato. Il senso della propria vocazione. Il saggio ha un successo enorme, consacrato anche dalla partecipazione di Hillman al famoso talk show di Oprah Winfrey. In poco tempo il codice dell'anima vende negli Stati Uniti quasi 400.000 copie. Una di queste viene letta anche dal primo protagonista della nostra storia di oggi, che anni dopo ne parla durante un'intervista televisiva. Ho letto una volta il libro di Hillman chiamato Il codice dell'anima, dove si parla di questa cosa della ghianda, qualcosa a cui tu sei destinato, che alcuni non trovano e altri sì, e altri ancora la trovano in momenti diversi della loro vita. Ma qualsiasi cosa essa sia, è quando tu arrivi nel mondo sapendo che quella è la tua strada. Lui la paragona a una ghianda ed è di questo che sto parlando. Quella sensazione di sapere per cosa sei nato e che devi riscoprire. Ma quando la incontri capisci che è quella, che è la cosa giusta per te. Non è un caso che nel libro Il codice dell'anima Hillman abbia preso in esame, per spiegare bene la sua teoria della ghianda, le biografie di moltissimi personaggi famosi. Da Ella Fitzgerald a Golda Meir, da Jackson Pollock a Jeff Buckley, da Krishnamurti a Cole Porter, fino a Hitler. Attraverso le loro vite, lo psicologo cerca di scoprire il loro destino individuale e la lotta che essi hanno fatto per riuscire a seguirlo nonostante tutto. Fra queste biografie manca quella che ora vi raccontiamo e che non avrebbe sfigurato fra quelle proposte da Hillman. Perché è quella di un uomo che ha sempre, per tutta la sua vita, voluto sfuggire ai cliché, alle imposizioni che il suo ambiente gli voleva destinare e persino a quelle che il suo fisico lo invitava a seguire. Il suo nome è Robert Redford. Robert Redford. Mio padre era cresciuto durante la depressione. Per questo voleva per me quello che lui non aveva potuto avere. Eravamo poveri. Sono cresciuto in un sobborgo ispanico di Los Angeles e noi eravamo una delle poche famiglie anglosassone in un quartiere di famiglie proletarie messicane. E mio padre faceva il lattaio. Avrebbe voluto per me un'educazione che mi indirizzasse verso una carriera sicura come l'avvocato, ma non faceva per me. Non potevo farlo. Chissà se nella ghianda di Robert Redford fosse scolpito il nome del secondo protagonista di Destini incrociati di oggi. Fatto sta che ogni singolo passaggio della vita dell'attore sembra una tappa di avvicinamento verso l'incontro certamente più importante della sua carriera. Ma andiamo per ordine. Charles Robert Redford nasce il 18 aprile del 1937 a Santa Monica, in California. Ma l'infanzia di Bob nel Golden State non è così dorata come ci si potrebbe immaginare. Suo padre, Robert Sr., porta ancora incisa dentro di sé la disperazione di un'infanzia in lotta per la sopravvivenza durante gli anni della Grande Depressione. Il terrore della miseria lo perseguiterà sempre, anche dopo il matrimonio con la solare Martha Hart e la nascita del piccolo Bob. Esigente con se stesso a tal punto da riuscire a lasciare il lavoro da lattaio e diventare contabile nella compagnia petrolifera Standard Oil, Robert Sr. applica la stessa intransigenza al figlio, col risultato di apparire un genitore freddo e distante. A peggiorare le cose, Martha si ammala di cancro, morendone quando ha solo 40 anni. Per Bob, attaccatissimo alla madre, è una pena enorme. Il dolore cambia il ragazzo. Iniziano le prime difficoltà, le prime bravate. Stavo proprio messo male da giovane. Stavo perdendomi. Ero molto agitato. Cercavo sempre di oltrepassare il limite delle cose. E non era molto sano, ma non ci potevo fare niente. E c'erano momenti in cui oltrepassare ogni limite diventava normale. Robert è solo. Con la scomparsa della madre, gli vengono a mancare i punti fermi. Non ha molti amici, anche se è in un periodo della vita in cui sente profondamente la necessità di averne almeno uno, qualcuno che gli indichi una strada. Anzi, qualcuno che possa percorrerla insieme a lui. Robert non sa ancora qual è il suo posto e nessuno di coloro che vivono intorno a lui sembrano comprenderlo. Gli unici momenti di gioia sono quando a scuola, durante la lezione, scarabocchia sui fogli delle vignette che raccolgono un certo successo fra i suoi compagni. Mio padre mi diceva: non perdere tempo con l'arte, sii serio. Ma io non potevo diventare una persona seria facendo altre cose, perché non c'era niente che mi interessasse. Ma nessuno mi sosteneva nel mio desiderio di fare arte. C'erano anche delle ragioni storiche. La gente stava uscendo allora dalla Grande Depressione e tutti erano ancora preoccupati per come tirare avanti. E l'arte non era vista come qualcosa di sostanziale. Eppure la sensibilità di Robert non può fare a meno dell'arte. Per questo, fra i pochissimi avvenimenti della sua adolescenza, che ricorda con qualche soddisfazione, c'è l'incontro, durante una fuga con gli amici, con Allen Ginsberg in una libreria di San Francisco, dove il grande poeta sta recitando il suo poema L'Urlo. Per Bob è una rivelazione. È la rassicurazione che è veramente l'arte quello che gli interessa. Il ragazzo inizia a leggere compulsivamente in ogni momento libero, anche se sarà lo sport e non la lettura quello che aiuterà Robert a garantirsi un'istruzione universitaria. Alla fine andai in Europa a studiare arte. E mentre ero a Parigi, mi sono trovato a dovermi confrontare con giovani radicali. Era la fine degli anni 50, che mi sfidavano sul piano politico. Io non sapevo niente. Ero cresciuto all'epoca in cui Nixon era senatore della California e io lo trovavo noioso. Era un uomo noioso che si comportava in maniera noiosa e io non ero interessato. Così mi sentivo umiliato quando mi sfidavano e mi chiedevano: come fai a non sapere quello che provi per il tuo paese? Il periodo trascorso in Europa si rivela molto importante per Robert. E quando un anno e mezzo dopo torna negli Stati Uniti, si sente più saldo nei suoi principi, più attento al mondo che lo circonda, pronto a impegnarsi in qualcosa. Forse per questo, quando torna a Los Angeles, si ritrova a prendersi un impegno che porterà avanti per ben 27 anni. È scritto nel DNA della sua personalissima ghianda e non vi si può sottrarre. Robert torna a Los Angeles, quel tanto che gli basta per innamorarsi e sposarsi a soli 21 anni con Lola Van Wangenen. Lola non ha ancora 20 anni e viene da una famiglia mormone dello Utah. Coraggiosa, paziente, piena di fede e di fiducia nel suo Bob, la giovane sposa sostiene il marito nella scelta di continuare a studiare arte, anche se questo vuol dire trasferirsi a New York per studiare alla Pratt School. We'd be so grand. So carefree together that it does seem a shame that you can't see your future with me, 'cause you'd be old. So easy to love. New York alla fine degli anni 50 è una città meravigliosa. Per i due giovani appena giunti dalla California, tutto sembra così nuovo, così puro, eccitante. Forse influenzato dalla città, Robert decide di fare un salto di qualità. Il suo talento nel disegno è troppo poco per iniziare una vera carriera come artista. Quindi decide di trasferirsi alla scuola di arte drammatica, passando così dal design alla recitazione. Un altro passaggio necessario, forse già scritto, nel percorso denso e tormentato del giovane Redford. L'allegria è ancora il motore delle giornate della giovane coppia, fino a quando il mondo intero sembra rivoltarglisi contro. Mentre Robert ancora non sa decidersi su quale sarà il suo futuro, Lola dà alla luce il loro futuro. Nasce il primo figlio, Scott. Scott è bello, buono, bravo. Ma Scott muore improvvisamente a soli 2 mesi di vita, della sindrome della morte in culla. Per la coppia è un evento devastante. Bob si rifugia nel lavoro. La recitazione per me non fu una forma di terapia, ma una forma d'arte che mi permetteva di esprimermi fisicamente. Quando finalmente accettai il fatto che ero un artista, ero abituato a mettere su un foglio le mie emozioni, anche se non ero uno scrittore. Ma potermi esprimere fisicamente fu un'esperienza nuova per me che mi fece scattare qualcosa dentro. E allora mi dissi, forse sono fatto per questo. Finalmente tutta quell'energia che prima andava da tutte le parti, forse anche facendo male agli altri, cercando qualcosa di eccitante da fare, improvvisamente si è incanalata e io credo che mi abbia salvato. Questa dichiarazione fa rientrare perfettamente il caso di Robert Redford fra quelli studiati dal professor Hillman, quello della teoria della ghianda, per intenderci. Ma un altro pilastro della teoria spiegata dallo psicoanalista nel Codice dell'anima è quello del daimon o demone, vale a dire di quella presenza, quel compagno che ognuno di noi riceve sin dalla nascita e che ci aiuterà nel corso dell'esistenza a portare a termine il nostro destino, a sostenere la nostra vocazione. I cristiani potrebbero chiamarlo anche angelo custode, ma in ogni caso, e come in ogni religione lo si voglia chiamare, il daimon è il responsabile di quella sensazione che ci fa credere che il mondo voglia che noi esistiamo e che esistiamo proprio in questo modo. Quando Redford inizia seriamente a intraprendere la carriera di attore, nonostante sia sempre più convinto che questa sia la sua strada, si trova ancora come in mezzo a un guado, in attesa di trovare il suo daimon che lo aiuti ad attraversare il fiume e a distendersi sulla sponda tranquilla di una carriera da star. Manca ancora poco a questo incontro. Destini incrociati. Sono i primi anni 60 a New York e Robert Redford, un giovane aspirante attore in cerca della sua strada, ancora non ha sfondato nel magico mondo del cinema. I suoi interventi si limitano alla televisione e a qualche parte in teatro, come per la deliziosa commedia scritta da Neil Simon A piedi nudi nel parco, dove recita al fianco dell'attrice Elizabeth Ashley. Ma finalmente anche per lui arriva una grande occasione: recitare in un vero film. Un film di guerra, Caccia di guerra. War Hunt. Are you Sergeant Van Horn? Yeah, you replaced me. That's right. Name's Loomis. Hey, hold the rocket! I'm sorry, what? Name's Loomis, Roy Loomis. Okay, Loomis. Glad to have you with us. È durante le riprese di questo film, girato in 3 sole settimane e con un budget bassissimo, che Bob incontra quello che poi, in un certo senso, diventerà il suo daimon, vale a dire il compagno che, secondo la teoria che lo psicanalista junghiano James Hillman ha esposto nel suo saggio Il codice dell'anima, può aiutare l'individuo a riconoscere e perseguire la propria naturale vocazione dentro di sé. È un attore e regista. Il suo nome è Sidney Pollack. Sidney Pollack. In verità fu piuttosto divertente, perché feci un film di guerra in bianco e nero, nel 1960-61, dove incontrai per la prima volta Sidney Pollack. Io ero un attore, lui era un attore, ma lui interpretava il mio ufficiale superiore. E da allora, per molti anni, non è cambiato nulla. Sul set, i due uomini, che hanno appena 3 anni di differenza, stringono un'amicizia che non si esaurisce con il film. Anche se l'esperienza dura poco e in breve tempo ognuno sembra tornare alla sua solita vita, Robert torna sul palcoscenico. Ma recitare per 8 volte alla settimana la stessa pièce lo annoia. Sempre alla ricerca di un nuovo ruolo, sembra trovarlo in un nuovo film, Lo strano mondo di Daisy Clover. La parte che recita è di secondo piano, ma è al fianco di star internazionali come Christopher Plummer e Natalie Wood. Natalie aveva visto uno spettacolo in cui recitavo ed era interessata a farmi avere la parte. Non ero di certo conosciuto all'epoca, non c'era nessuno che scommettesse su di me, quindi lei ha avuto una parte fondamentale nei miei inizi. Ma il suo primo amico sul set, quello che non lo abbandonerà per tanti anni, lo attende sempre grazie a Natalie Wood, quando Bob viene chiamato a Hollywood, questa volta come coprotagonista. Il film si chiama Questa ragazza è di tutti. E dietro la macchina da presa c'è lui, Sidney Pollack. Quando ho visto il suo nome in cima alla lista del cast, in parte per autodifesa, il film avrebbe potuto anche essere un disastro, ancora non c'era la sceneggiatura per intero, e in parte perché avevo avuto un buon feeling e avevo lavorato bene con lui, insomma, per tutto questo dissi a Nathalie: quest'uomo è incredibile, ma davvero incredibile. Hai mai visto il suo lavoro? Ah, è un grande. Sidney è sul set che aspetta l'arrivo di Robert e anche lui sente dentro di sé un mix di sensazioni, alcune positive, ma qualcuna anche meno. Ero nervoso la prima volta che ho diretto Bob, perché fino ad allora eravamo stati solo amici, eravamo stati entrambi attori. Quindi mi preoccupavo di come lui si sarebbe sentito essere diretto da me e di come mi sarei sentito io mentre lo dirigevo. Alva, ascoltami. Quando il treno va forte, lo sai che cosa dice? Bromo Seltz. Senti, tu mi stai guardando dritto negli occhi, il che non è educato. Vado via domani, Alva. Il film non ha un successo enorme, a parte la nomination ai Golden Globes di Natalie Wood, ma si intravede la sensibilità registica di Pollack, moderna, curata nella fotografia, attenta alla recitazione degli attori. Tutte qualità che il giovane regista ha imparato nei lunghi anni di gavetta, che l'hanno visto anche davanti alla macchina da presa, dove ha conosciuto Bob la prima volta. Anche la sua vita, vista in prospettiva, sembra scolpita per incrociarsi con quella di Redford. Sidney Pollack nasce nello stato dell'Indiana, Lafayette, uno di quegli stati poco eccitanti che gli Stati Uniti hanno distribuito variamente per tutta la nazione. La famiglia in realtà è di origini ebraiche emigrata dall'Ucraina. Era un posto carino, ma non un luogo particolarmente eccitante. Io continuavo a sognare Los Angeles e New York e non vedevo l'ora di fuggire da lì. Così dopo il liceo andai a New York a frequentare l'accademia e dopo un po' diventai assistente di Sanford Meisner. A quei tempi volevo diventare un attore, ma senza accorgermene stavo facendo un'incredibile esperienza nel dirigere gli attori. A soli 24 anni, Pollack viene riconosciuto come un ottimo insegnante di recitazione e doppiaggio, tanto che il regista John Frankenheimer lo invita a Hollywood per seguire il doppiaggio dei protagonisti più giovani del suo film Il giardino della violenza. È su questo set che incontra Burt Lancaster, che Sidney ricorda sempre come il suo mentore. Burt Lancaster si interessò al lavoro che stavo facendo. Mi fece molte domande sul tipo di lavoro che facevo con gli attori e a poco nacque un rapporto fra di noi e lui mi consigliò di provare a occuparmi di regia. È lui che mi spinse letteralmente verso questo mondo. Le prime regie di Pollack sono essenzialmente televisive, che alterna al lavoro di attore. È in questa veste, come abbiamo già raccontato, che incontra Robert Redford sul set di Caccia di guerra. Di lui si ricorderà quando arriva il momento di affrontare la direzione di un film importante come Questa ragazza è di tutti. La collaborazione fra i due uomini funziona perfettamente e da allora cercheranno con ogni mezzo di trovare nuove occasioni per lavorare insieme. Abbiamo fatto quel primo film insieme e poi siamo stati separati per molto tempo, cercando disperatamente di tornare a collaborare. E visto che nessuno ci faceva riunire, abbiamo dovuto pensarci noi. Passano 6 anni prima che i due si ritrovino di nuovo insieme in un set, durante i quali succedono molte cose. Pollack continua in modo costante a costruire la sua carriera da regista. Nel 1969 si conquista la sua prima nomination agli Oscar come regista di Non si uccidono così anche i cavalli, con Jane Fonda, insieme ad altre 8 nomination che vanno dalla migliore attrice alla migliore sceneggiatura non originale. Sidney non riesce a ottenere la statuetta, che va invece a Gig Young come migliore attore non protagonista. Le cose vanno diversamente per Redford. Ancora indeciso sul suo futuro, subito dopo Questa ragazza è di tutti, si trasferisce in Spagna per un anno con tutta la famiglia. Ancora non ero sicuro delle mie scelte. Nonostante tutte le esperienze fatte, ancora non ero sicuro. Così decisi di prendermi un anno sabbatico e con mia moglie e i 2 bambini che avevamo già, passammo un periodo tra Grecia e Spagna. mentre io decidevo se volevo continuare, perché non ero ancora sicuro di poter diventare seriamente un artista. Mentre è in Europa, Redford riceve l'offerta di portare sul grande schermo la commedia dei suoi esordi, A piedi nudi nel parco, questa volta a fianco di Jane Fonda. È un'offerta che non si può rifiutare. Infatti il film è un grande successo di pubblico. La coppia è giovane, bella, così ineccepibilmente WASP in ogni sua connotazione. Due biondi e sani esemplari della buona società anglosassone americana. Ma è proprio questa esemplarità, il rientrare così bene negli schemi, il rappresentare il modello classico di bellezza maschile americana, che insinua una nuova inquietudine in Bob, che finisce per sentirsi schiacciato, ironia della sorte, nel ruolo del bel biondo che per una vita ha inseguito belle bionde alla Marilyn Monroe. Per questa ragione rifiuta molti ruoli che gli vengono offerti in quegli anni, sempre alla ricerca di un'interpretazione che gli richieda maggiore sostanza. Come nota sottilmente Richard Rushfield nel Daily Beast, il famoso giornale online di Tina Brown, se Redford fosse nato una generazione precedente, la sua bellezza, la sua abilità nella recitazione e il dono naturale che aveva per la commedia lo avrebbero naturalmente portato verso una brillante carriera paragonabile a quella di icone come Cary Grant e Clark Gable, diventando l'idolo di una cultura pop, forse lontana dalle simpatie intellettuali dei critici, ma che ne avrebbero fatto il cocco di Hollywood. Ma il problema di Redford è stato che A piedi nudi nel parco, uscito alla fine del 1967, precede di pochissimo gli anni 70 con il loro bagaglio di rabbia e di cambiamento. Un nuovo decennio che avrebbe portato a film come Taxi Driver, Il Padrino, per i quali la mascella quadrata e il ciuffo biondo di Bob erano davvero poco indicati. Eppure, sotto l'ala apparentemente distante di Redford, batteva un cuore sensibile ai problemi politici e sociali, che aspettava solo di potersi esprimere in modo adeguato. Ero coinvolto personalmente come membro della società civile. Ero politicamente molto attivo, nel campo dell'energia. Tutto ebbe inizio negli anni 70. In attesa di trovare uno scopo nella sua vita, Redford partecipa a uno dei film di maggiore successo della fine degli anni 60, Butch Cassidy, dove per la prima volta recita al fianco di Paul Newman. Perché non saltiamo? Col cavolo che io salto. Dai, che già facciamo? Speriamo che l'acqua sia profonda abbastanza. Non ci seguiranno anche lì. E chi te lo dice? Tu salteresti da qui se non fossi costretto. Sono costretto, ma non salto. Ma noi dobbiamo, se no ci ammazzano. Se ne andranno a mani vuote come sono venuti. Forza. Voglio stendere almeno uno. Su, andiamo. No. Ma chi aspetta? Fermo, non mi toccare. Che? Io voglio battermi. Ma ci ammazzeranno. E pazienza. Vuoi crepare? E tu? No, ho capito. Salto io per primo. No. E allora salta tu. T'ho detto ma no. Ma che accidente vuoi? Non so nuotare. Quella che abbiamo appena sentito è la famosa scena del salto del torrente che i due protagonisti compiono per sfuggire agli inseguitori. In questa scena, come in tutto il film, Redford è bravissimo, al punto di rischiare quasi di rubare la scena all'allora molto più famoso Newman. Il successo è enorme, ma Redford, nonostante consideri il film come uno dei punti di svolta della sua vita, ancora non sente di aver trovato il suo reale percorso nel mondo del cinema, di non avere cioè trovato quello che James Hillman chiama il senso della propria vocazione. Destini incrociati. A Destini incrociati, Robert Redford cerca di dare un senso alla sua vocazione, essere un attore di sostanza. Ad aiutarlo nell'impresa c'è l'amico Sidney Pollack, ormai diventato un regista ben considerato a Hollywood. Jeremiah Johnson made his way into the mountains, betting on forgetting all the troubles that he knew. Nel 1972 a Pollack capita fra le mani il copione scritto da John Milius di Jeremiah Johnson, che in italiano verrà tradotto in Corvo Rosso non avrai il mio scalpo. Il film è uno dei primi ad andare oltre lo stereotipato rapporto fra americani e indiani, riuscendo a restituire ai pelle rossa la dignità di esseri umani. A suo modo, Corvo Rosso non avrai il mio scalpo è il primo film con un contenuto in un certo senso politico a cui Redford riesce a partecipare. Ed è l'amico Sidney Pollack che si fa vettore del desiderio d'impegno di Redford. Cercavo di introdurre nei miei film i miei pensieri politici e i miei sentimenti, le mie domande, i miei dubbi, le mie preoccupazioni. Non volevo che fosse la politica a predominare, questa sarebbe stata solo propaganda. Non credo in questo genere di cose. Penso che la gente l'avrebbe rifiutata. Ma anche dal punto di vista del cinema, era un'epoca totalmente diversa. Negli anni 70 era possibile fare cose che oggi non si possono più fare, a meno che non si entri in quell'arena che è il cinema indipendente. L'esperienza di Corvo Rosso rappresenta per Redford un punto di svolta. Finalmente sente di aver trovato il senso del suo lavoro e si rende conto che è anche grazie al sostegno di Pollack che questo è potuto accadere. Sidney è l'unico regista in quell'inizio di anni 70 che non desidera solo sfruttare l'aspetto esteriore di Bob, ma che vuole raggiungerne l'anima, la profondità. Sidney è stato sempre molto bravo a utilizzarmi al meglio. Il film viene girato nelle montagne dello Utah, la regione originaria della moglie Lola, che Bob ha ormai adottato a suo rifugio personale. Avrei sempre voluto avere una casa in montagna quando ero un ragazzino e mi dicevo che se mai avessi avuto la chance di costruire una casa tra i monti, l'avrei fatto. E quando la chance è arrivata, l'ho fatto. Ho costruito una casa nel luogo che considero il più bello che abbia mai visto. Lontano, lontano da tutto. Ma la fama di Redford è ormai consolidata e diventa difficile poter restare troppo a lungo lontano da tutto, soprattutto dallo Star System. Tutti vogliono Bob e finalmente in ruoli che non sembrano quasi tenere in conto la sua bellezza, quanto il suo spessore umano e politico. Film impegnati si susseguono a film più leggeri, ma sempre intelligenti, fatti di un'ironia scanzonata. In questo modo Redford passa dal recitare nel film politico Il Candidato al grandissimo successo de La Stangata, di nuovo in coppia con Paul Newman, fino a un nuovo progetto di Sidney Pollack, Come eravamo, insieme a Barbara Streisand. La storia è buffa. Volevo così tanto Bob con me sul set che ne parlavo spesso a tutti gli amici, con timore, perché lui aveva detto di no già a così tanti ruoli. Quindi pregavo e speravo che dicesse di sì. E intanto dovetti andare in Africa per un film e mentre ero lì, Susie Mangers, che allora era la mia agente, mi spedì un telegramma con su scritto Barbara Redford e io capì che lui aveva firmato. Scattered pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another for the way we In Come eravamo, Sidney e Bob lavorano a lungo per tentare di dare al personaggio di Hubble, interpretato da Redford, una sua profondità sotto l'aspetto da superficiale belloccio biondo. Il film ha un successo enorme, anche grazie alle spiccate qualità commerciali di Pollack, che da sempre innamorato dello show business, sa perfettamente come bilanciare l'impegno con le necessità del botteghino. Ci completavamo a vicenda. Io ero più attivo di lui politicamente, ma lui aveva le capacità del manager e sapeva gestire l'aspetto politico del copione pur mantenendolo commerciale e interessante. Al loro terzo film insieme, la coppia Redford-Pollack si sente sempre più rodata, tanto da decidere di prendersi il rischio di lavorare a un progetto apparentemente non di grande successo, come il copione de I tre giorni del Condor. Il Condor fu diverso. Sembrava giusto un lavoro sia per me che per Robert. Credo che nessuno dei due avesse riposto grandi speranze in questo film. Certo, volevamo fare il film migliore possibile, ma nessuno di noi si aspettava che diventasse, non dico un classico, ma piuttosto un film di riferimento degli anni 70. La nostra era una collaborazione meravigliosa, basata essenzialmente sui nostri ruoli. Io ero l'attore e lui il regista, e come regista avevo completa fiducia in lui. Era un rapporto che ci dava soddisfazione. E lui aveva abbastanza fiducia in me da accettare che il mio contributo andasse oltre l'essere semplicemente un attore. E lavoravamo veramente bene insieme. Amavamo i nostri punti di forza, ma anche le nostre debolezze. Ci prendevamo gioco delle nostre debolezze, facendo finta di non avere la forza che avevamo davvero. Una sorta di falsa umiltà, ma ridevamo parecchio perché erano tutte stronzate. Sono stati begli anni. Anni meravigliosi che ricorda anche Pollack. Quando lavora, Bob finisce sempre con l'essere distratto da un sacco di cose. Questo non vuol dire che non si concentri appieno sul film. Semplicemente a volte è difficile farlo stare fermo, per le riunioni o a tutto quello che serviva per definire i dettagli, prove costumi, prove di recitazione, questo genere di cose. Era veramente occupato, aveva un sacco di cose da fare e quindi è sempre stato complicato. Ma per me, come regista, lavorare con lui era fantastico. È per questo che ho fatto tanti film con lui. La coppia Redford-Pollack si ritrova ancora insieme sul set di due film, Il Cavaliere Elettrico e il pluripremiato La Mia Africa, che vince ben 7 Oscar, fra cui finalmente quello alla regia per Pollack. La strada di Pollack e Redford è ora tutta in discesa. Eppure i due continuano a non volersi adagiare sui loro successi. Pollack, oltre a dirigere, si scopre produttore e a volte torna anche a fare l'attore in film di successo come Mariti e mogli di Woody Allen o Eyes Wide Shut di Kubrick. Redford, invece, sente ancora il bisogno di proseguire sulla strada dell'impegno sociale e civile, che lo porta a fondare nel 1981 il Sundance Institute, dal nome del suo personaggio in Butch Cassidy, per aiutare e promuovere il cinema indipendente americano. Per me si è trattato di creare un meccanismo in cui nuovi, giovani, nuovi artisti essenzialmente, potessero avere la possibilità di sostenere e far sentire l'indipendenza delle loro voci. Il mondo sta cambiando, questo è inevitabile. E quando il cambiamento arriva, gli artisti devono potersi aggrappare a qualcosa di solido, a qualcosa che li faccia sentire parte di una comunità, che è una cosa molto importante perché nel corso della mia vita ho assistito a una progressiva perdita di senso della comunità. Entrambi però non hanno mai perso il senso del sostegno fra di loro e la voglia di tentare sempre di ottenere un risultato non scontato dalla loro vita. Un proposito che hanno sempre tenuto bene a mente, fino al punto di segnarselo come proponimento. Quando divenne una star, Redford mi disse che un giorno si sedette al tavolo e mise giù una lista di 3 potenziali pericoli. Numero 1. All'inizio ti tratteranno come un oggetto, ma loro non sanno chi tu sei. Tutto quello che conoscono è solo la tua immagine sullo schermo. Numero 2. Se non stai attento, inizierai a comportarti come se fossi quell'oggetto. Numero 3. L'ultimo punto, che può decretare la tua morte come artista, è che tu diventi quell'oggetto. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini Incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.